bene, la distanza va bene. Io direi di sì, sto qua. Più che altro forse i prismelli si vedono un po', c'è un po' di piante. Guarda, no. Oh dai, no. Questo è già si vede. Dove ci sono le piante già si vede. Già si vede l'olio. Sì, quello sì. Hola bro. Cecilio. Coglione, coglione, coglione, coglione, coglione. Hola bro, hola bro, hola bro. Hola bro. Ciao bro. Ciao bro. Ciao bro, ciao bro. Si sente. Pronto bro? No! Pronto. Ora potete avvisarmi facile quando c'è da combattere. Poi ce lo teniamo per giocare a UTI. Vai, mena ye. Aio bro. Aio, joinane una. Ne facciamo una. Bro? Aio bro. Assistenza. A cosa? Al cazzo. È l'unica cosa che gli riesce bene. Ramacciotto, mi vuoi sposare? Ha detto di sì, però vuole un diamante. Ho solo zirconi, bro. Sia contenta. Padri. Padri. Ehi, da morto pure. Ehi, è un'oretta già. Ah, era cosa da fare, bisogna fare senz'altro. Non devi, perché sennò domani mattina bisogna scendere per forza, cazzo, sennò hai da ragione. Gira, gira, oggi faremo, domani faremo, ancora ci farà. Giammari, però fammi sapere così, cioè dammi una conferma, perché capito, se no domani vado a farmi la spesa, domani mattina, se mi dici che non vieni. Infatti, molti siamo, in oretta scendiamo e saliamo, senz'altro andiamo domani mattina, tanto non devo fare niente, oh, cazzo, perlomeno. Io ho pensato a quello, altro domani mattina non devo fare niente, e per cui si può fare senz'altro domani mattina, dai. Ok. Eia, allora ti aspetto. Eia, telefono quando esco da casa, capito? Eia, lo sai che poi troviamo un casino di gente là, se si fa tardi. Eia, lo sai, quando mi metto attorno mi sta facendo lo stesso scherzo di prima, no. Ma, torra. Infatti, me l'ha fatto già due o tre volte. E adesso infatti l'ho tolto e ci ho messo il suo proprio, dai. Cazzo. L'ho tolto e va, è un peccato, cazzo. A chi bisogna darlo, controllerò bene questa roba. Conta quanto era, già un anno, no? Ma lui mi ha detto che non ci ha fatto più di tanto, ha fatto qualche saldatura, mi sa che aveva controllato. Non aveva fatto niente di che. È perché manca la corrente dall'apparato, però il display l'accetta rimane accesa, capito? Così che deve essere che si interrompe la 12 volte, capito? Bisogna darglielo di nuovo. Infatti, è perché le cose, il display davanti rimane acceso, capito? Sapevo che manca la corrente e la 12 volte, allora l'apparecchio è chiaro che si spegne. Beh, un macello è cazzo. Cazzo, perché cazzo, anche se ce l'ho apparecchiato, ma è buono, è nuovo, ha lavorato poco, capito? Eia, bisogna chiederglielo se ha tempo a controllarlo. Infatti, vediamo un po', va. Ne parliamo domani. Sì. Adesso ci ho rimesso il suo proprio e tira a campare, capito? No, lo so perché il suo c'ha un attacco solo, mentre invece quell'altro ne ha quattro. Due dietro e tre davanti, anzi ce l'ha. Eiu, va bene, dai. Ok, allora domani tu, ok? Ok. Ciao. E che è gufo? È gufo con l'influenza deve essere. È ammalato, Aspetta, Bacchisio. Luca Frippero. Quello vai a mamma Giulia. Luca. Che meri? Oh, Lu. Dimmi. Vai, da ci sei, allora. No, Bacchisio mi sta dicendo che... Però non so se... Già te lo dico alla cosa, dai, al telefono, ti faccio la telefonata. Eia. Luca. Eia. Ciao, buonasera. Una cortesia devo chiedere a lui. Noi mi puoi caricare due... tucchi tucchi, no? Cioè caricare, in che senso? Mettere la memoria di quelli che non sono canalizzati. C'hanno i canali. E a metterci la frequenza, no? Sui canali. E come te la mando io? Ma hai capito quello che volevo dire? E che modello sono? La Baufeng. Che modello sono? C'è anche dalle squalo uguale, quello lì. E non lo so che modello ha Tore, boh. E se riesco a trovare qualche cosa, se te lo dico. Ma non è portatile, no, Bacchi? Sì, è portatile solo. Ah, ho capito. Da dire la marca e ti saprà dire qualcosa, dai. La marca è la Baufeng, però il modello non ne vedo. Ho capito, non ce n'è modello. Senza canalizzato. BF pure 88, non so. Ma quelli mi sembra bisogna attaccarli al computer per farli. Adesso l'ho aperto. L'ho aperto a vedere un po' se c'è qualcosa di strano. Allora qui c'è scritto power 5 watt, frequenza 460, non... ok, per modello, il modello è BF e poi non si legge altro perché c'è la sanghetta sopra. 888 dovrebbero essere. Ma chi? Aspetta, sto cercando di leggere. Ho detto dovrebbe essere BF888, che è nero con i due potenziali. Volume squelch. Ma volume canali mi sembra. Ehi, è 88, quello lì è. Quello nero famoso. Cioè è lui. Mi sembra che quelli bisogna attaccarli al computer, se non mi ricordo male. Tu li puoi fare tu? Sì, ce l'ho anch'io quello uguale. Poi li do a Gio Maria io questi qua. Ce l'hai domani, dopodomani, perché uno l'ha dato a uno se riusciva a fare qualcosa, ma non penso ci riesca. Hai capito? Ehi, io ne ho già uno di quelli, già programmato anche, non lo uso mai. Comprato ma non l'ho mai usato. Questo qui è più leggero degli altri. Sì, c'hai due tastini arancioni al fianco sinistro anche. Esatto. Ah? Quelli sono bacchi. Sì, è quello dei tastini arancioni. Non sono. Hanno la monopolina dei canali e il volume. E poi questi due tasti arancioni sulla sinistra. Sì, c'era uguale io, quello. BF888, insomma. Sì, è BF888. Le faccio bene lui. Sì, va bene. Ma non ce l'ho anch'io lui? Sì, uguale a quelli che avevamo preso. Ah, ho capito. Ho capito. Bene, veda. Bene, veda, vediamo un po'. Adesso lo rimetto a caricare. E quando vuoi macchina, ya lo sai. Ok. Pasquale se n'è volato. Cos'è Bacchi? Pasquale se n'è volato. Ma ti immagini il distruttore, ragazzi. Ah, ma mi pare chi c'è. Ci sta fregando lo Bacchi, A me mi sembra che ha preso qualche altra via. A me mi sembra che Cole stia pescando e stia vedendo i pesci adesso, perché quello non risponde. Ho capito io, bisogna sgridarlo, Se rientra stasera lo sgridiamo, Bacchi. Senz'altro, anche una bevuta deve pagare. Sì, perché così lo si fa, Cazzo, non ho capito io. Ho cosa vuole, a telefonargli ogni sera. Ma te le immagini, ragazzi. Aspetta, vediamo un po' se c'è Marino. Marino. Ah, beh, mi sembra che sotto quell'albero, dove lo vedo sempre con la zappa in mano, sotto l'albero, Bacchie. Dritto, però senza fare niente, quella zappa se ne sta ridendo, cazzo. Perché è stanca la zappa, capito? Stava riposando. Perché sono come i motori, se non li fai riposare poi si ingrippano. Infatti, ce l'ha usata la zappa. E si piglia visto brutto anche lui, sicché bisogna usarla anche. Evidentemente, non ne ha più voglia la zappa, no? Ma se non la usa, catta, mi penso mandrò la viro, Tutte le volte che passo lì lo vedo sotto quell'albero con la zappa in mano, però senza far niente. Sto aspettando che cresca l'erba, tu sì, non hai capito niente allora. Lui va sotto l'albero, aspetta che cresce l'erba per tagliarla. Ma ti immagini, come se l'ha presa lui, vabbè. Lui l'ha presa in quel modo. Così è. Ma adesso già entra, perché stava collaudando l'antenna, adesso se la sta inastrando, gli sta mettendo il cappello in testa per vedersi umidità. preciso, lo ascolto, e stiamo venendo in macchina verso Campagna. Sì, in macchina verso Campagna. Buonasera, dottor, come se la sente? Ascolto, la sento sempre, benissimo. Giornalina è sempre forte. No, addirittura non ti aspettavo, ma ci ascolto benissimo. Anche io ti ascolto bene, vediamo se Gian Maria c'è anche. Gian Maria, vai per Marino. Già lo sento a tratti, però, perché sono col gommino, capito? Lo sento a tratti, lo sento. Maria, mi senti a me? Aspetta un secondo, Marino, adesso mi senti? No, non mi sente, no. Passiamo ai 27, allora, devi provare con l'antenna, Bacchi. No, è in macchina, Gian Maria, è in macchina, per quello che sto scendo a tratti. Maria, adesso ti lasciamo, ascolto, ma dove sei, a che altezza sei? Vicino al Bicomer, adesso giro la lavoratore vicino a casa, capito? Ti ascoltavo a tratti, Gian Maria. A tratti lo sto ascoltando io, capito? Lo sento a tratti, ma in macchina è? Sì, è in macchina è. Ecco perché, infatti ho tutto strano, E sono col gommino, è per quello che lo sento a tratti io pure. Ascoltato là il Marino, Gian Maria. Non ti senti adesso? Allora già l'ascolti, Gian Maria, ci arrivi troppo forte. Attento Marino. Senti che è tratteggiato, In movimento, sta camminando. E dunque è tratteggiato. Ma si capisce quello che dice però. No, tutto a posto, cosa c'aveva Marino? Ecco cosa era, non c'era massa. Ha capito Gian Maria, non c'era massa nell'antenna. No, ho capito, ma che antenna dice non c'era massa. E dunque adesso la pulita e va bene. Oh, meglio così allora. A me tranquillo. E va bene, quando arrivi a casa la proviamo, siamo qua in Italia. Adesso è arrivata una bomba. Sei ai punti adesso. E allora anche Gian Maria ti ascolta benissimo. Avanti Gian Maria. Non sempre, no. A momenti esce a tratti, capito? Avanti Maria. Forte arrivo. Marino, cos'è? Forte arrivo. Gian Maria, ci arrivi troppo forte. Cosa stai facendo? Troppo forte. Io la sento bene Gian Maria, no, non è così forte. No, col gommino sono col gommino. Dove si trova lui? E a Ripunti ci si trovava Marino. Adesso ha detto qualcosa, avete parlato in due, non ho capito l'uno nell'altro. Avanti, ripeti Marino. Zero, riporto zero. No, non ti sento più, nuovo lì. Io non lo sento più, nulla. Ma neanche io, dove sei andato in buca? No, non ti capisco, ma l'hai tratteggiato peggio di prima. Dove ti trovi adesso? Oh, signor Bacchisio, buonasera. Buonasera, signor Gian Maria. Buonasera, signor Squalo. E c'è anche Marino, vai per Marino. Ma ancora cosa è a Marino? Niente roba tratteggiata, Io lo sento più, Ciao, buonasera. Buonasera, Marini. Ma ti arrivo malissimo, mi arrivi. Ok, ciao, Marini. Ma chi è che rimane in ascolto? Benissimo, sentiamo voi allora. Spiegate a scendere che sentiamo l'antenna. Avanti, Gian Maria. Non lo sento per niente io, nulla, nemmeno scarichi, niente. Zero completamente. In ascolto adesso. Ah, in ascolto. E allora sto. Vedi, stavamo pensando a male, amico, un bacchiso poccanti di te. No, sono rientrato adesso, sono rientrato da prendere la signora. Anda, beh. Diglielo, Bacchi, diglielo. Ma io l'ho detto che la prendere la signora, non mi sono sbagliato, ho fatto i conti. 5 più 5 fa 10, era così. Un attimo il telefono. Ehi, Giomari. Ehi, Bacchi, se fa 10... Noi facciamo 15 lo stesso. Sicuro, sicuro, facciamo 15. È dispari però. Catta. E beh, trovato l'hai a coso? A Luca. Signor Bacchisio. Ehi, hai detto che le devo dare a Luca. Io te lo farei, però poi se tolgo il coso non so più come andare avanti. Ah, beh, non lo so. Luca dice che li può fare. Gli do a Giommaria e Giommaria li porta a Luca. Fa così. Fa così, li metterà a posto lì, perché io se non lo vedo facendolo non mi fido, ecco. Ci riuscirei anch'io, però non mi fido a farli. Che c'è questa batteria che non sta caricando. Andavi. Perché il programma ce l'ho io nel computer. Il programma ce l'ho, però devo sapere il coso come devo fare, ecco. Luca me l'aveva spiegato, però se ne metta più. Eccoci qua. Ehi, Giomari. Già siamo qua. Riprenditela. Ce l'ho io anch'io preciso quello lì. Capito? A me me l'ha fatto lui, infatti. Anche Luca ce l'ha preciso. Ma glielo fa domani, va. Anzi, quando me lo fa avere, glielo fa, capito? Sì, anda bene. Io ci riuscirei a farlo, ma non mi voglio fidare io, assai. Ma adesso, tanto già, glielo fa Luca lui. L'ha fatto pure a me, così che glielo farà senz'altro. Va bene. Ok, Bacchi, riprendi. Bacchi si è caduto dalla caccia della gadria. No, dice che ha messo l'apparecchio a coso, a caricare la batteria. Stavo caricando e non potevo rispondere. Stavi caricando tu o la batteria? Bene, bene. Chissà che riesco a sentirti da qua, con quello lì, Bacchi. Sì, col portatilino. Ascolto Marino da casa sua qua, lo ascolti a me. Aspetta che lo provo, a ver se mi senti. No, ma non ti sento, vai che tranquillo, occhi chiusi che ti sento. Ok, riprendito un attimo. Sì, andare. Ma chi ti stavo dicendo, cosa hai caricato, la batteria o tu? La batteria del quel portatile sto caricando. Ho finito di caricare. Si è messo a caricare? Sì, ya. Siamo Giommaria, se arriva. Arriva Marino da campagna qua. E no, adesso Marino era con quel portatilino, era. Oh, era con il portatile. Ma in macchina, ma ho detto che era in macchina. Ma al centro era? No, era nella zona di Ribunti, quella parte di giù, stava da casa sua. E col portatilino come quello che hai tu, che io che dicendo. Sì, però in un punto in dira sono riuscito ad ascoltarlo. È in movimento, cosa vuoi? Sei da dentro la macchina, in movimento, non si può pretendere tanto. Quello sì. Andave. Beh, c'è Giammarì. Aspetta che è andato a prendere il portatilino. Non fa il tuo, tolle le figlie, se ci arrivi qua, a voglia, occhi chiusi. Non sei scindo. Ho detto, prova anche tu. No, io ci ho già provato, non ci arriva così, no. Sono troppo, troppo chiuso. Non ci arrivi, non ci credo. Poi, no, 5 watt. Sì, mi aspetta, dai. Pacchisio, mi ascolti? Come non ti ascolto? A bomba, più forte dell'altro radio. Forse a me mi arrivi basso. Arrivi, più forte dell'altro radio. Fortissimo. di questa radio qua. Sì, col portatile, arrivi forte. Boh, non l'avevo mai provato. L'ho provato una volta, ma non riesce a arrivare. Forse a Gian Maria, no? Vediamo se Gian Maria c'è. Gian Maria. Senti, attenzione, Gian Maria. Sore. Sa che non sento a Marino. Marino. E fra poco Bacchino rimane senza batteria. Due tacche ne ho, mi poi buonanotte. Sì, Bacchi. Senti, ma io, due tacche di batteria, fra poco sono a cura terra. Come mai? Non te l'hai messo a caricare? Da parecchio giorni che lo carico. Bisogna lo metto a caricare. Tanto poi entriamo in 27 perché Marino entra nella 27. Sì, io chiedo. Aspetta che se entra Gian Maria. Ehi, è così, questo lo metto a caricare. Sì, dai, vieni in 27, se in caso se chiama già lo chiamo io. Sì, no, aspetta che metto a caricare questa batteria. E chi è? Non stai uscendo! Sei fuori frequenza! Otto! Ehi, Gian Maria! È già di sesto già! No, c'è lo scambio, io non riesco a toglierlo, capito? Quello non lo so neanche io com'è. Infatti, perché questo è il terreno scambio, capito? E vi sento tutto inciampugliato, così vi sento, capito? E non riesco a toglierlo. Gian Maria! Con Bacchisio si è scaricata la batteria e sta passando in 27. Dai, ecco, va bene, acceso il mio, dai. Passiamo ai 27.